Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato i decreti, potremmo dire forse i mini decreti sull'università, decreti attesi anche per il clima di protesta che ha coinvolto la scuola nelle ultime settimane. 3.000 ricercatori in più, stop ai concorsi in 7 atenei, concorsi del personale fuori standard. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, che ha anche un commento, un passo verso il merito. Commento firmato da Massimo Egidi, rettore della LUIS, e da Riccardo Viale, direttore della Fondazione Rosselli, esperto di università e innovazione, che abbiamo con noi oggi. Buongiorno professor Viale. Buongiorno. Con noi oggi c'è anche Marco Mariani, caporedattore del Sole 24 Ore, perché domani il Sole 24 Ore offre ai lettori in allegato, a modico prezzo, 4,90 euro mi sembra, un manuale, un Istanbul, come cambia la scuola. Marco Mariani, che cosa possono trovare tutti quanti cercano di sapere qualcosa su come cambia la scuola? Buongiorno a tutti. L'idea appunto è quella dell'Istanbul, cioè di un prodotto fatto a ridosso dell'attualità, ed è un'attualità che presenta continui spunti di riflessione e di cambiamento, un prodotto che ha una doppia finalità: dall'altra quella di far capire tutto quello che sta succedendo, quali sono i principali provvedimenti legislativi di cui si parla, gli aspetti coinvolti, e dall'altra anche offrire una serie di elementi di analisi e di dibattito che consentano il lettore di capire anche i differenti punti di vista che entrano in gioco su questa materia. Un aspetto che caratterizza questo Istanbul è anche la sua proiezione su internet, nel senso che ai lettori dell'Istanbul viene fornita anche una chiave d'accesso a un'area riservata del sito internet del Sole 24 Ore, dove di giorno in giorno verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti che riguardano questa materia. Quindi è una guida che allo stesso tempo cerca di essere completa, esauriente e contemporaneamente anche aperta a tutti gli sviluppi e i cambiamenti successivi che registreremo sul nostro sito internet. Ecco, cambiamenti che stiamo proprio vivendo in questi giorni. Appunto, accennavo al provvedimento di ieri del ministro Gelmini sull'università. Su questo provvedimento il commento del Sole 24 Ore è un commento sostanzialmente positivo. Il governo sta imboccando la strada giusta, scrivono Massimo Egidi e Riccardo Viale, e l'obiettivo è invertire il declino della qualità della formazione e della ricerca che sta caratterizzando molte, troppe università italiane. Il titolo è Un passo verso il merito. Riccardo Viale è in linea, forse un piccolo passo verso il merito, ma nella direzione giusta. Sì, assolutamente, un piccolo passo, perché c'è tantissimo ancora da fare. La direzione è quella giusta, ed è quella direzione che va da una parte verso il riconoscimento di un ruolo importante, strategico, di designer del sistema dell'università da parte del governo, e però l'affermazione progressiva di una realtà e di un'importanza sempre maggiore per il decentramento dell'università e un'autonomia compiuta delle sedi universitarie a tutti i livelli, quindi a livello amministrativo, a livello della didattica, a livello della ricerca. Quindi si sta praticamente avviando una trasformazione dell'università italiana verso i modelli inglesi o americani? Sta avviando, chiaramente me lo auguro, una trasformazione dell'università italiana verso il modello inglese e di alcune realtà universitarie americane, soprattutto quelle di tipo pubblico, quelle legate agli stati della federazione, come per esempio l'Università della California. Non ovviamente verso un modello dell'università americana che fa parte della rete delle università private, perché le università private americane fanno parte di una storia che per adesso è ancora difficile da raggiungere in tempi rapidi. Comunque questo decreto prevede nuovi finanziamenti all'università, in particolare alle borse di studio per il turnover del personale, però prevede anche delle punizioni per università che hanno dei costi fuori standard. Quindi è anche non solo un invito, ma un monito pressante esecutivo verso le università che forse hanno manifestato un'esuberanza finanziaria. Riccardo Viale. Assolutamente, è un monito che deve far riflettere i rettori e gli organi di governo delle università sui passi da compiere nel futuro. Quello che è importante sono quei 500 milioni di euro rivolti alle università più meritevoli. Allora lì il problema si tratta di capire su quali standard di valutazione e soprattutto come verrà compiuta la valutazione. I criteri per valutare ci sono, basta guardare ai criteri adottati nel sistema britannico, che vanno più che bene da prendere in blocco e portare in Italia con poche modifiche. Il problema è come attuarli. Il sistema di valutazione britannico è un sistema di valutazione molto lungo, complesso e costoso. Riuscirà l'Italia a realizzare un sistema di valutazione e una valutazione così puntuale come quella della Gran Bretagna? Ne parleremo del futuro dell'Università Italiana. Abbiamo alcune telefonate in linea, ricordo l'800 24 0024 per i nostri ascoltatori. Roberto da Salerno, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare una piccola riflessione sulle recenti disposizioni della Gelmini, quindi in particolare sulla scuola / università. Saluto con interesse il discorso che per la prima volta si vuole effettivamente concretamente valutare il merito e si parte dall'università, però io vorrei fare una semplice riflessione. Qualsiasi governo, sia esso sia di destra o di sinistra, deve considerare l'istruzione come priorità assoluta, perché stiamo vivendo dal 90 un arretramento culturale che è qualcosa di spaventoso. Primo, ogni manovra che si vuole fare sull'istruzione dovrebbe coinvolgere la strategia, la struttura e l'organizzazione. Se noi sulla scuola vogliamo sempre ragionare solo ed esclusivamente sulla base di vincoli di finanza pubblica, siamo un paese purtroppo destinato ad un arretramento che purtroppo, mio malgrado, lo vedrò molto molto negativo. Quindi va bene l'innovazione, la ricerca sull'università, il reclutamento un po' più, diciamo, trasparente, premiare il merito e quant'altro, ma sulla scuola deve essere priorità assoluta di tutti i governi. Cioè non esiste considerare la scuola solo costo, ma deve essere un investimento, ma serio, concreto, e lavorare su strategie, strutture ed organizzazione. La ringrazio molto. Io penso che Riccardo Viale potrà essere d'accordo sul fatto di considerare la scuola, l'università, l'istruzione e la ricerca come una priorità del paese. Assolutamente. La società ed economia della conoscenza, anzi diciamo l'economia della conoscenza che si basi sulla società della conoscenza, è una delle priorità di questo paese, è uno degli obiettivi di Lisbona, e il paese senz'altro deve adottarla in pieno, cosa che non ha mai fatto in questi anni. L'unico problema è che bisogna adottare queste priorità, quindi consentendo al sistema di avere risorse, però modificando le regole di organizzazione, le regole per la promozione del merito, le regole di valutazione e così via, se no sono, come abbiamo visto nel passato, sono anche soldi buttati al vento. Certo, tutti gli investimenti devono avere una valutazione, spendere i soldi va bene, spenderli meglio indubbiamente va ancora meglio. Marco Mariani. Sì, parlando di qualità della scuola, uno degli aspetti chiave è quello della formazione degli insegnanti. Il tema che uno dei temi che è sul banco di discussione è quello del blocco delle scuole di formazione dell'insegnante, le cosiddette SIS, e non si sa al momento quale potrà essere lo sviluppo nuovo, è tutta una materia in forte fase di cambiamento. Il problema reale però non è tanto il canale di formazione degli insegnanti quanto la qualità degli insegnanti. Anche a proposito delle scuole elementari si è molto discusso di modello alternativi tra maestro unico, tempo prolungato, quanto poi il vero elemento discriminante sarà l'effettiva autorevolezza e capacità degli insegnanti che entreranno nelle scuole, autorevolezza che non è affatto garantita dagli attuali sistemi di formazione e di reclutamento. Assistiamo poi di fatto a dei picchi di eccellenze di grandissima qualità, così come anche a delle cadute forti nella mediocrità, e il sistema non è in grado di dare alle famiglie italiane una garanzia di uniformità verso l'alto nella scuola, qualità degli insegnanti. Ecco, c'è un punto nell'articolo di oggi di Massimo Egidi e Riccardo Viale dove si sottolinea che il punto forte della scuola è quello dell'autonomia, ma l'autonomia della scuola, l'autonomia di ogni ordine di scuola e soprattutto dell'università deve essere collegato strettamente con la responsabilità. L'autonomia senza responsabilità è stata la cifra degli ultimi anni e ha prodotto molti guasti dei quali sarà difficile rientrare. Questo è un passo dell'articolo di Massimo Gidi e Riccardo Viale. La responsabilità, Riccardo Viale, allora come viene inserita in prospettiva nel sistema dell'istruzione italiano? Per quanto riguarda il sistema di istruzione universitaria, la responsabilità significa dare alle sedi universitarie l'autonomia piena su tutte le funzioni che le università hanno, senza dover a questo punto mediarle con istanze del governo centrale. Questo significa in sostanza che le università si devono trovare davanti alla scelta se come e in che modo, secondo che criteri, competere sul mercato della conoscenza con le altre sedi universitarie. La parte pubblica avrà il ruolo a questo punto di dare linee guida per la creazione delle governance, cioè delle strutture di governo interne all'università, e chiaramente, come dicevo, col sistema di valutazione dare degli incentivi selettivi alle università migliori. Legato a questo c'è l'aspetto della governance introdotto dal decreto Tremonti sulle fondazioni private. Ecco, le fondazioni private potrebbero essere un modello che potrà essere adottato da poche università che riescono a superare più della metà del finanziamento da parte esterna, da parte privata. La maggior parte delle università non hanno questi requisiti, però alcune potrebbero averle anche nel futuro. Allora, a questo punto probabilmente si configurerà un sistema con due tipi di università: un gruppo piccolo di università che avrà una governance tipo corporate, tipo di azienda, con le fondazioni private, e che sarà un'università di ricerca rivolta a obiettivi soprattutto di scienza e tecnologia, su cui poi dopo impostare l'attività di formazione alla professione, alla ricerca e così via. Un altro invece gruppo molto più grande di università, che non avrà questa governance legata alle fondazioni, avrà una governance di carattere più pubblico e che avrà più obiettivi legati alla formazione di personale da immettere nel mercato del lavoro in tempi rapidi, e sarà molto legata alle esigenze e domande del territorio. Grazie Riccardo Viale. Parliamo di università, parliamo dei decreti Gelmini. Avete sentito poco fa dalle notizie sul traffico che sono previsti peraltro anche oggi cortei di protesta degli studenti. Salvatore da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica pure. Sento un eco, è normale? Noi sentiamo bene, dica pure. Ok, no, volevo, come diceva la sua collega, sono presidente di una società che da 10 anni si occupa di selezione del personale unicamente in ambito neolaureati. Volevo quindi così commentare un pochettino il clima generale che c'è intorno alla riforma universitaria. Ogni tanto mi viene da pensare che se un rettore venisse nei nostri uffici o per assistere a un colloquio, che uno di questi ragazzi per un lavoro, dovrebbe avere il dovere intellettuale di dare dimissioni, perché lo scempio che vediamo nei nostri uffici operato su questi ragazzi ogni giorno da anni e anni e anni è una cosa che non ha veramente nessun precedente. Bisognerebbe vedere questi ragazzi che non hanno la benché minima idea di quello che li aspetta, della competizione che li aspetta, di quello che le aziende pensano che loro debbano valere e che invece non valgono. Ed è una roba, io trovo che sia una cosa indicibile che qualcuno voglia mettere mano a questo sistema che si è sempre soltanto autoreferenziato, che così si levino queste voci a protezione di un sistema che è totalmente inefficiente, salvo eccezioni legate veramente al dovere civile di chi le gestisce queste organizzazioni. Grazie per questa testimonianza, direi molto, molto viva, una testimonianza anche molto drastica, ma basata su dati di fatto, essendo il presidente di una società che si occupa appunto di inserimento dei neolaureati, dati di fatto che sono appunto uno dei temi che andrebbero presi come metro di valutazione dell'università, perché anche da quanti studenti riescono a trovare un posto di lavoro si dovrebbe poter arrivare a valutare l'efficacia delle università. Ma Riccardo Viale, forse è un po' utopistico pensare a questa valutazione successiva? No, non penso proprio. Ciò che è veramente degradante per l'università è pensare di valutare l'università in base al numero di iscritti alle lauree che vengono realizzate. Ciò porta a un'inflazione delle lauree, un abbassamento della qualità degli insegnamenti, un aumento della facilità con cui gli esami vengono realizzati, e quindi escono fuori laureati che non sono preparati. Questa è la decisione che è stata presa in passato di premiare l'università per il numero di iscritti e il numero di laureati è veramente un criterio aberrante. È molto meglio e si può valutarlo sulla base dei posti di lavoro e sulla qualità dei posti di lavoro realizzati dalle università in rapporto alle lauree che vengono sviluppate all'interno, quindi alla qualità della didattica. Cioè, sono perfettamente d'accordo. Quindi ecco, questo dimostra il fatto che una riforma dell'università è non solo utile ma necessaria, cioè che in fondo l'università ha raggiunto questi livelli per scelte sbagliate, anche per scelte che hanno portato l'università ad essere in molti casi un dopo liceo più che una preparazione accademica. Quindi superare anche questo fatto vuol dire collegare molto più l'università alla realtà delle imprese, alla realtà dell'economia. Questo sarebbe un dato positivo. Riccardo Viale. Allora, chi insegna all'università si rende conto, come diceva l'ascoltatore che ha parlato precedentemente, come la maggior parte degli studenti che arrivano dalle scuole superiori non abbiano la padronanza della lingua italiana, né nel parlare né nel fare poi dopo i test scritti, in particolare i test scritti, non sanno scrivere. Quindi la prima cosa importante del rapporto università e scuola è che le scuole insegnino a scrivere e a parlare, a padroneggiare la lingua italiana. Già quello sarebbe un salto di qualità importantissimo. Già la scuola superiore quindi non fa i propri doveri e poi l'università difficilmente li corregge. Sentirei un ascoltatore, un ex studente universitario, Davide D'Alecco. Buongiorno. Buongiorno. La chiamavo per portare la mia esperienza. Sono fondamentalmente d'accordo con chi mi ha preceduto, nel senso che quello che secondo me va cambiato completamente l'università italiana sono i criteri di valutazione. C'è un esempio molto semplice: io ho frequentato un'università a Milano e ho visto fondamentalmente che per migliorare il giudizio di un corso di laurea quello che veniva fatto era a uno scritto alzare il voto medio, diciamo passare la soglia minima oltre il quale si dava la sufficienza all'esame. Questo perché il giudizio sul corso veniva dato anche sulla base, sulla percentuale degli iscritti che passavano quel corso. Capisci che così diventa un po' un gatto che si morde la coda, perché non c'è più la cernita, cioè diventa una massificazione, tutti lo passano perché il professore deve avere un buon voto, tra virgolette. Mentre ritengo che la valutazione di un corso non debba arrivare dalla base degli studenti o comunque da questi criteri, ma da qualcos'altro. Cioè, io sono molto più d'accordo su un criterio che sia basato sulla valutazione della ricerca che viene effettuata in un determinato dipartimento o su altre attività che non siano però la percentuale di iscritti in esame che passa quell'esame. Grazie. Grazie Davide D'Alecco, una battuta, un'ultima battuta, siamo quasi in chiusura, Riccardo Viale, proprio sulla valutazione dell'università. Ecco, la valutazione dell'università ovviamente deve essere fatta secondo vari parametri. Uno di questi parametri, lo diceva l'ascoltatore precedentemente, è la capacità di produzione scientifica della università. Un altro parametro, che è diventato sempre più importante nel passato prossimo, è il rapporto fra laboratori di ricerca universitari e mondo dell'impresa, quanto collaborano università e impresa per potenziare la capacità competitiva del sistema delle imprese italiano. Un altro fondamentale è appunto il job placement, che tipo di professione, che tipo di posti di lavoro riesce a soddisfare la università nella sua attività didattica. Però io volevo sottolineare che all'interno dei provvedimenti del ministro Gelmini ce n'è uno molto importante, anche se poco visibile, che dovrà essere tra l'altro anche amplificato in futuro, che è fondamentale per l'università, che è l'edilizia universitaria. Cioè il consentire agli studenti di non dover rimanere sotto il portone di casa per iscriversi all'università, ma di con un'edilizia universitaria sufficiente, così che riesca a soddisfare la domanda degli studenti italiani, poter andare a Milano, a Torino, dove c'è l'università che prepara nella maniera migliore per quel tipo di professione, certo. Professione quel tipo di studio. E certo. Insieme a quello importante ovviamente le borse di studio. universitarie, borse di studio per creare un sistema in cui gli studenti possono muoversi nel territorio nazionale e andare a scegliere le università migliori per le loro aspirazioni. L'università deve cambiare, sta cambiando, dovremmo affiancare questo cambiamento. Marco Mariani, solo una battuta per ricordare allora come cambia la scuola, l'Istanbul del Sole 24 Ore. Sì, è il libro che va in edicola da domani, che è strutturato in tre capitoli fondamentali che consentono di seguire passo dopo passo tutti i cambiamenti che sono allo studio, in fase di definizione. Il primo passo è quello delle scuole, quindi dalle elementari alle superiori, quindi ci occupiamo di maestro unico, nuovi orari, reclutamento degli insegnanti. Il secondo passo riguarda appunto tutta la situazione del personale scolastico. Infine il terzo blocco è quello dell'università, in cui forniamo il contesto di proliferazione dei corsi, di costi ormai poco sotto controllo verso il dissesto, che fanno da cornice a tutti questi provvedimenti. Alla fine diamo anche indicazioni su temi molto concreti, come il riscatto della laurea, che è diventato molto più conveniente ed è un'opportunità interessante anche per molti giovani. Questo domani con il Sole 24 Ore, come cambia la scuola. Grazie a Marco Mariani, caporedattore del Sole 24 Ore, grazie a Riccardo Viale, direttore della Fondazione Rossella, Carmelo Laricella in regia. Quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per lunedì.